Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve e benvenuti alla nuova puntata, la numero 604 di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta il mondo, i fatti di attualità, mettendo in primo piano il punto di vista degli animali non umani. Oggi parleremo di Afghanistan, di cani, di cambiamenti climatici, di progetti di conservazione delle specie a rischio. Gabriele Palloni cura per questa puntata sia la ricetta della settimana che la colonna sonora. Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali in cielo mi portò. In questi giorni difficili per l'Afghanistan, con la partenza delle forze militari statunitensi, il ritorno al potere delle milizie talebane e il tentativo di lasciare il paese da parte di migliaia di persone, ci sono anche notizie che riguardano la sorte degli animali. In particolare c'è il caso di un ex appartenente alla Royal Marine britannica, Paul Fearthing, noto come Pen, rimasto in Afghanistan dopo aver prestato servizio nell'esercito britannico e fondatore, con un gruppo di volontari del posto, di un rifugio per animali, chiamato Nausard, a Kabul. Sembra che Fearthing abbia ottenuto l'autorizzazione all'espatrio del personale del rifugio, ma ha chiesto di poter portare via anche i 140 cani e i 60 gatti ospiti della struttura, nella convinzione che altrimenti sarebbero perduti. L'ex marine ha fatto sapere di aver trovato ascolto fra i funzionari del Ministero della Difesa britannico, ma l'operazione di evacuazione è ancora in forse. Gli animali, in tutte le guerre, sono vittime dirette e indirette dei combattimenti e la situazione dell'Afghanistan ne è l'ennesima conferma. In Italia l'associazione AIDA ha rilanciato gli appelli per il rifugio Nausard, sostenendo che prima e più di altri, si legge in un comunicato, nell'inferno afghano a rischiare la vita sono coloro che in questi anni hanno avuto il coraggio di raccogliere e salvare migliaia di animali, in particolare cani, questi ultimi ritenuti animali impuri dai fondamentalisti islamisti e spesso uccisi. Fra loro vi sono anche i volontari e gli animali del rifugio Nausard. Temiamo per la loro vita. Per questo rivolgiamo un appello alle autorità italiane e alla NATO, ma anche alle nazioni confinanti con l'Afghanistan, per chiedere un intervento forte a tutela dei volontari animalisti afghani, di cui oggi nessuno parla, ma che come altri, e forse più di altri, in questi giorni rischiano la vita, insieme a quella degli animali che hanno salvato in questi 20 anni. Salvare gli animali e i volontari che se ne occupano, aggiungiamo noi, non è un lusso né un eccesso, ma l'applicazione della stessa idea di tutela e di giustizia che in queste ore si sta cercando di affermare a tutela dei più vulnerabili fra gli afghani, cioè coloro che in vario modo hanno collaborato con le forze di occupazione e hanno ragione di temere rappresaglie. Napoli è mille colore. Napoli mille paure. Napoli a voce re creatura, che sai chiano chiano, e tu sai che non sei sola. Napoli è un sole amare, Nabla adori mara. Nabla una carta sporca e nessuna sa ne porta e ognuna aspetta sciorta. Le storie degli animali da compagnia e delle loro dimostrazioni di affetto per gli umani con i quali convivono hanno sempre avuto grande presa sull'opinione pubblica. Non sorprende quindi che esista un premio internazionale di fedeltà del cane, assegnato quest'anno a Camogli ad Amon, il chihuahua di 4 anni e mezzo che per 4 giorni e 3 notti ha vegliato la sua proprietaria, chiamiamola così, rimasta adagiata su un albero dopo essere scivolata in un dirupo. In questo modo, guaendo e attirando l'attenzione, l'ha salvata. È successo nelle montagne del Cuneese. Il figlio della donna, scampata al pericolo, ha commentato: «Lo hanno sentito guaire e l'hanno trovata. È stato bravissimo. Mi hanno spiegato che si è accucciato sul collo di mamma, quasi a volerla proteggere». Il premio alla memoria è stato invece assegnato a Nicoletta, una cagnetta di Ischia, che per 10 anni ha vegliato la tomba di Alfred, il suo padrone, chiamiamo anche lui così. Il premio è stato ricevuto materialmente dal signor Enrico, che si è preso cura della cagnetta per diversi anni e dopo la sua morte ha fatto realizzare una grande statua in tufo verde per ricordarla. Caravan Petrol, Caravan Petrol, Caravan Petrol. Canta Napoli, Caravan Napoli Petrol. Petrolifera. Caravan Petrol, Caravan. Ma già affittato nu camel, ma già cattato nu turbante, nu turbandari, nascendo con pennacchio rosso e blu. Co fiasca manio da Muriel, cerco petrolio americano, mentre ballo nei beduini, mentre canto nei tribù. Come si bella a cavalla stu camello, con vino, con l'altra colla, con turbandio narchile. Uè si curioso, mentre scava stu portu, si scorda del, non è cosa che ho petrolio, non c'è stampo. Alla, alla, alla, ma chi t'ha fatto fa? Come si bella a cavalla stu camella, con vino, con l'altra colla, con turbandio narchile. Co fiasca a mano e co camella, che guardi annanzi a folla a rete, rivuta faccio tu lede, non si può più camminare. Già mi è arrivato pazzariello, se trovo stu da me nel licca mi scoppiva con tabacca, ma chi è sta lì babà? La lotta ai cambiamenti climatici, come sappiamo, procede purtroppo in modo stentato. Perciò non è una buona notizia il fatto che per la terza volta, e sempre a causa della pandemia, sia stata rinviata la 15ª conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità. Il più grande vertice sul tema degli ultimi 10 anni, un vertice che dovrebbe indicare gli obiettivi per il prossimo decennio. L'appuntamento era in programma per il prossimo mese di ottobre a Kunming, in Cina, ma si svolgerà solo con incontri virtuali per concludersi in una seconda fase in presenza, sempre a Kunming, ma non prima della metà del 2022. Fra gli obiettivi della conferenza ci sarebbero, fra l'altro, il taglio di 2/3 dei pesticidi utilizzati in agricoltura, l'eliminazione dell'inquinamento da plastica e la protezione del 30% della terra e dei mari del pianeta. Un programma enorme. È impossibile non notare la serie di legami e coincidenze attorno a questa conferenza. La pandemia che impedisce la riunione è con ogni probabilità causata proprio dalla perdita di biodiversità di cui si dovrebbe discutere. E tutto avviene proprio in Cina, da dove il coronavirus ha cominciato il suo viaggio verso il resto del mondo. Il percorso accidentato di questa conferenza, insomma, è emblematico delle difficoltà del mondo attuale, visto che oltretutto l'incontro, quando alla fine avverrà, ben difficilmente porterà a prendere decisioni troppo importanti, visto lo stato dell'agenda politica internazionale, ben lontana dal trattare con efficacia questi importantissimi temi. Fanno all'eroi Napoli, a scuola non ci sono mai potuti. Napoli, cucciuri al rindo sì. Napoli, affiliata rinda cucca fami. Napoli, o guerna c'era sulla polizia. Napoli, e signora porna sta più tranquilla. Napoli, nessuno più lo scippo curzo lì. Napoli, i ben pensanti votano DC. Napoli, i camurristi votano così. Napoli, i sicchielotti votano così. Napoli, ma mi zavi continuano a morire. Napoli, ma tenimmo solo a pizio mandolina. Tarantella, canzone, solo e mandolino. A Napoli se mora a tara luce e fino a Napoli. Na, na, na, na, Napoli. A 25 mezz'ori. Napoli. Napoli. Napoli. Il percorso cominciato da Francesco Panier nel complicato mondo dell'informazione e della disinformazione in materia ambientale con la rubrica Lessico dell'Antropocene tocca oggi un tema trasversale alle scienze biologiche e all'umanesimo. Francesco ci parla di mutualismo. Come si bella cavalla stu camello col vino l'altra con la coda di un archile. Quasi curioso mentre scava stu per tu si scorda della non è cosa che ho patroia non c'è stampa. Alla alla alla. La natura è davvero sempre matrigna? La competizione è davvero l'unica cifra delle relazioni ecologiche? La risposta è no, ma troppo spesso ce lo dimentichiamo. Da Darwin in poi, cioè dalla metà dell'Ottocento, ha preso infatti piede una visione secondo cui i rapporti sociali ed ecologici sono sempre frutto di una gara per le risorse. Non tutti erano d'accordo già allora, Friedrich Engels nel 1875 scriveva che l'intero insegnamento darwiniano della lotta per l'esistenza è semplicemente un trasferimento dalla società alla natura della dottrina di Hobbes della guerra di tutti contro tutti e della dottrina economica borghese della competizione. Engels non era un ecologista, ma capiva che il cosiddetto darwinismo raccontava soltanto una parte della storia. Un anno dopo, Pierre Joseph Van Beneden, zoologo e paleontologo belga, coniava il termine mutualismo per descrivere quelle strategie ecologiche in cui due o più specie cooperano per trarre un vantaggio reciproco, ad esempio cibo o rifugio. Al contrario del parassitismo o della predazione, quindi, questo tipo di relazione non danneggia nessuno. Le relazioni reciproche sono molto importanti nelle dinamiche ecologiche dell'ambiente, ad esempio nell'aumento della biodiversità. In questo quadro il mutualismo può essere visto come una sorta di baratto o scambio biologico in cui ogni specie guadagna e dà qualcosa. Ad esempio le api e i fiori. Questa relazione simbiotica esiste da millenni ed è molto importante per preservare la vita vegetale nel mondo. Le api, attratte dalla dolcezza dei fiori, succhiano il nettare che è al loro interno e inconsapevolmente si impregnano del polline della pianta, portandolo su un'altra pianta e favorendo così la riproduzione e l'aumento della biodiversità. Un altro esempio lo avrete già in mente, spesso nei documentari sull'Africa si vedono mandrie di animali che pascolano con gli uccelli in piedi sulla schiena, che li beccano senza ferirli. Questo perché gli uccelli si nutrono delle zecche e dei pidocchi che invece ingaggiano con questi animali una relazione parassitaria, eliminando in cambio quel fastidio. Ultimo esempio la micorrizza, cioè quell'associazione simbiotica tra le radici degli alberi di un certo tipo di funghi. Questi ultimi danno umidità alla pianta in cambio di sostanze nutritive, in un rapporto reciprocamente vantaggioso. Questo per dire che il mutualismo ci insegna che non sempre le relazioni sono basate sulla violenza e sulla sopraffazione. Senza rinnegarne il contributo, quindi, è bene tenere Darwin a debita distanza quando proviamo a portare l'ecologia nei rapporti sociali e nell'economia. Sappiamo infatti che la strada del mutualismo è sempre possibile, che ci mette in connessione profonda con l'alterità e apre spazi di coesistenza pacifica e felice. Con lui volando lontano dalla terra, dimenticando le tristezze della sera, in paradiso oltre le nuvole, pazza d'amore come le lucciole. Quanto tempo può durare, quante notti da sognare, quante ore, quanti giorni e carezze infinite. La ricetta di Gabriele Palloni, il nostro tosco vegan chef, autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, prende spunto, come ogni volta, da una delle notizie della settimana. Sentiamo che cosa ha pensato per noi Gabriele questa volta. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Oggi vi propongo un piatto tipico afghano, rivisitato in versione cruelty free, sottolineando il fatto che togliere crudeltà e violenza è sempre cosa buona e giusta, ma soprattutto necessaria. Gli ingredienti per 4 persone per il Bor Pilau sono 200 g di seitan, un cucchiaio di salsa di soia, il succo di mezzo limone, 320 g di riso basmati, 150 ml di yogurt di soia al naturale, una cipolla, uno spicchio di aglio, un peperoncino, mezzo cucchiaino di pepe rosso, mezzo cucchiaino di coriandolo in polvere, un quarto di cucchiaino di zafferano, mezzo cucchiaino di cardamomo macinato, olio extravergine di oliva, sale. Stemperate la salsa di soia con limone ed un cucchiaio di olio extravergine. Tagliate il seitan a cubetti e lasciatelo marinare in questa salsa per un paio di ore. A parte sbucciate e tritate la cipolla, fatela scottare con poca acqua e quando questa sarà evaporata, fate soffriggere per pochi minuti con un cucchiaio di olio extravergine. Aggiungete il seitan scolato dalla marinatura e lo spicchio di aglio sbucciato e schiacciato e fate rosolare il tutto per 5 minuti. Quindi unite lo yogurt di soia, il peperoncino, il coriandolo, aggiustate di sale e fate cuocere a fuoco lento per circa 20 minuti. Nel frattempo sciacquate il riso in un colino e lessatelo in abbondante acqua salata, scolandolo al dente. Unite il riso al seitan stufato, aggiungete lo zafferano precedentemente sciolto in una tazzina di brodo vegetale, il pepe rosso e il cardamomo. Coprite e lasciate cuocere a fiamma alta per un minuto. Versate il tutto in una pirofila e infornate a 150 gradi per 25 minuti prima di servire. Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroime. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta che c'è cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella precisa mamma. Chiudiamo con alcune notizie di tenore conservazionista, riguardanti cioè interventi in corso per tentare di salvare specie animali in via di estinzione. Cominciamo riprendendo una notizia pubblicata dal Corriere della Sera nei giorni scorsi. In Kenya, si legge nell'articolo di Agostino Gramigna, è in corso il primo censimento della fauna selvatica terrestre e marina. Un impegno enorme, con imbarcazioni, aerei e ogni strumento utile, anche le tradizionali indagini a piedi, osservando gli escrementi lasciati sul terreno, si sta cercando di contare quanti siano gli elefanti, i rinoceronti, le giraffe, i pangolini e poi le balene, le tartarughe, i delfini, insomma le specie a rischio ancora presenti sul territorio del paese. Il progetto è interamente finanziato dal governo keniano. Quando non conti, non stimi e non segui costantemente gli animali, ha spiegato una delle biologhe impegnate nel processo, Winnie Kiru, a volte questi animali vengono spinti alla soglia dell'estinzione. Il Kenya in effetti ospita numerose specie considerate a rischio, in particolare leoni, giraffe, rinoceronti bianchi, ma anche varietà di tartarughe marine e delfini. Speriamo che questo censimento vada in porto e che serva davvero a limitare perlomeno i danni. T'aggio voluto ben a te, tu m'ha voluto ben a me, ma non c'amo più mai potuto distrattamente pienza in me. Una seconda notizia riguarda il progetto di reinserimento della lince nell'arco alpino. È il progetto Life Links in corso in Slovenia. La notizia è che due escursionisti hanno avvistato nell'altopiano di Jelovica tre cuccioli di lince e la loro madre, la quale sarebbe Aida, una delle tre femmine inserite nell'area. A questo punto non è escluso che anche le altre due femmine traslocate in Slovenia, Lenka e Julia, abbiano dei cuccioli. La notizia, che induce evidentemente all'ottimismo, arriva dal WWF Italia, che sta seguendo con attenzione il progetto Life Links e che informa come gli animali inseriti in Slovenia derivino da catture fatte nei Carpazi di Romania e Slovacchia. Gli incontri con la lince in natura sono molto rari e ancora più raro è osservare una femmina in compagnia dei suoi cuccioli, quindi l'avvistamento in Slovenia è molto importante. Il WWF ricorda comunque che è necessario non disturbare mai gli animali, specialmente nei primi mesi di vita, che sono fondamentali per le loro possibilità di sopravvivenza. Non dimentichiamo che la vita selvatica per tutti gli animali che la praticano è un'impresa quotidiana. Ti voglio ancora bene, ma tu non sai perché, perché l'unico amore sei stata tu per me. A tu per un capriccio tutto è distrutto in me, ma Dio non ti perdona quello che hai fatto a me. Femmana, si doccia come zucchero, però sta faccia d'angelo ti serve per inganna. Femmana, tu sia più bella femmana, ti voglio bene e t'odio, non ti posso scordare. La terza notizia riguarda l'Italia e in particolare i camosci. Conta circa 1500 animali, tutti in ottima salute, la colonia che vive nel Parco Nazionale della Maiella, la più grande nei nostri Appennini. È una colonia di camosci che ha ormai 30 anni ed è cresciuta nel tempo a partire da un piccolo paese, Lama dei Peligni, in provincia di Chieti, un insediamento a 700 metri di altezza, dove prese forma la prima area faunistica che pose le basi per la reintroduzione del camoscio nella Maiella. È da qui che sono poi partiti gli esemplari fondatori di altre due colonie, quella del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e quella del Parco Regionale Sirente-Velino. Evidentemente i camosci hanno trovato nell'Appennino un ambiente ospitale. Pesciolina rinta all'acqua dell'amore mio, nuota nuota rinto cuore, si più forte in un ciclone. Pesciolina, ci penso ogni mattina, sono pronte con fiette la mia vita con te. Per questa settimana è tutto, vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Francesca De Matteis, Gianluca Masala, Anna Granata, Francesco Panier, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.